paura che hanno levato anche la ferrovia, eppure tutto il resto si scolora. Ora che sta al sicuro, dove nessuno sa, anche se tutti sanno dove sta. E c'è la luna, c'è la luna. Quanto velocemente si può fermare qua, se un cuore passo passo si innamora. Così velocemente che il mondo non lo fa, pure con quella fretta che si dà. E c'è la luna, c'è la luna, la luna, la luna, c'è la luna. E c'è una luna ribelle, luna di formaggio, quanti cuori di ghiaccio ha messo sotto sale, come te, come te, mai nessuna. Questa luna infingarda che a metà del viaggio, quando ancora non sa se crescere o calare, già si sa che sarà inopportuna. Per un cuore all'incanto che pretende, che dà solo amore, solo amore, solo amore, e non chiede né denaro o fortuna, la prima donna sulla luna. Ora che il tempo è andato, quasi volato via, eppure quanto ne rimane ancora. Ora che sta al sicuro, dove nessuno sa, anche se tutti sanno dove sta. E c'è la luna, c'è la luna, la luna, la luna, c'è la luna. E c'è una luna ribelle, luna di formaggio, quanti cuori di ghiaccio ha messo sotto sale, come te, come te, mai nessuna. Questa luna infingarda che a metà del viaggio, quando ancora non sa se crescere o calare, già si sa che sarà inopportuna. Per un cuore all'incanto che pretende, che dà solo amore, solo amore, solo amore, e non chiede né denaro o fortuna, la prima donna sulla luna. La prima donna sulla luna.